Se Giovanna di Trastamara fosse stata un maschio, il suo destino politico sarebbe stato differente, poiché anche se si trattava di una regina legittima e erede del regno di Castiglia e León, la sua volontà doveva essere sempre sottomessa a quella del marito, ancorché di lignaggio inferiore. In definitiva, chi avrebbe governato era il maschio. Non ho dubbi che gli uomini avevano, per il solo fatto di essere tali, molte più possibilità rispetto alle donne in tutto ciò che riguardava l'esercizio del potere politico e delle attività pubbliche. Questa dichiarazione è di Miguel Ángel Ladero, della Real Academia de la Historia, ed è estratta dal documentario Juana la Beltraneja, la reina calunniata, Giovanna la Beltraneja, la regina calunniata. Giovanna dovette a soli 6 anni confrontarsi con la zia Isabella, 17enne e volitiva per il trono di Castiglia. Giovanna fu detta la Beltraneja poiché i suoi nemici, favorevoli al partito di Isabella, la calunniarono insinuando che non fosse figlia legittima del re Enrico IV, fratellastro di Isabella, bensì di un suo stretto collaboratore che si chiamava per l'appunto Beltrán. Ma le parole dell'illustre storico spagnolo che ho citato all'inizio si attagliano perfettamente anche a un'altra Giovanna. Infatti, la Beltraneja non fu l'unica Giovanna vittima di Isabella, che qualche anno più tardi sacrificò alle sue mire politiche la sua stessa figlia, Giovanna I di Castiglia, che fu detta la pazza e che in tale ingiusto modo viene tuttora ricordata dalla storia. È davvero un fatto che tra i più floridi regni della storia umana vi siano quelli dominati da regine. Isabella di Castiglia unificò la Spagna, cacciò gli arabi e sostenne le spedizioni di Colombo e dei conquistadores che arricchirono notevolmente la Spagna, ancorché spogliando e uccidendo le popolazioni native dell'America Latina. Isabella può essere definita l'artefice del grandissimo siglo d'oro spagnolo. Elisabetta I d'Inghilterra, che letteralmente tirò fuori il regno dalla rovina sociale ed economica in cui l'aveva lasciata il padre, rendendolo l'impero che ancora oggi può essere definito il più ricco del mondo, seguita da un'altra grandissima regina inglese, Vittoria, artefice di riforme sociali e anche lei imperatrice di un regno magnifico creato a scapito delle popolazioni native dell'est e dell'ovest del mondo. L'imperatrice Maria Teresa d'Austria, che nel 700 operò riforme giuridiche, sociali e monetarie ancora oggi valide. Ognuna di loro ha dato il suo nome all'epoca che governò. Si parla infatti di età elisabettiana, teresiana, vittoriana, isabelina. Ma alcune di queste grandi regine hanno letteralmente strappato il trono ad altre donne, che forse ne avevano più diritto per nascita, arrivando a imprigionare e uccidere per il trono. Pensiamo per esempio all'assassinio di Maria Stuarda, regina di Scozia, da parte di Elisabetta I. E pensiamo alla triste storia delle due Giovanne, nipote e figlia di Isabella di Castiglia, che si trovarono, essendo pacifiche e miti, di traverso sul cammino del potere di questa ambiziosissima donna che divenne regina di Castiglia e che ancora oggi è amata e idolatrata dal popolo spagnolo. Eh sì, perché le grandi regine europee hanno governato da uomini, con pugno di ferro, nessuno scrupolo nemmeno verso la propria famiglia, e nessuna remora nell'intrigo e nell'esercizio del potere, secondo la visione patriarcale, duale. Chissà se Giovanna, Juana, designata a succedere al trono di Castiglia dalla stessa madre Isabella, ma costantemente bloccata e imprigionata dallo stesso marito e dal padre per toglierle il governo, avesse potuto governare con la sua mentalità pacifica e tollerante, forse sarebbe stata una buona regina, una buona madre per il suo popolo, alla maniera delle matriarche neolitiche, nella condivisione delle ricchezze, non nella loro accumulazione. La storia di questa infelice donna, data in sposa per interesse all'ambizioso e spietato Filippo d'Asburgo, detto il Bello, divenuta pedina di scambio sulla scacchiera del potere tra Spagna, Francia, Austria, Paesi Bassi e infine imprigionata e privata dei figli fino alla sua morte dal suo stesso padre, che si impossessò così del trono che spettava invece a lei, è stata da me estrapolata per la scuola delle donne dal romanzo El pergamino de la seducción, La pergamena della seduzione, della scrittrice nicaragüense Gioconda Belli. Di seguito vi offriamo la lettura delle sole parti del romanzo riguardanti la vita di Giovanna I di Castiglia, che che la storia ricorda ingiustamente come la pazza, ma che fu invece una donna la cui vita fu resa un inferno da coloro che avrebbero dovuto amarla e proteggerla. Un'altra restituzione che la nostra scuola vuole compiere, raccontando i fatti e risanando le bugie perpetrate dalla storia patriarcale. Il romanzo da cui è tratta la storia di Giovanna, La pergamena della seduzione, è edito in Italia da Rizzoli e tradotto da Margherita D'Amico. Da Devana, buon ascolto.